Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Oggi i primi verdetti al Mondiale sudafricano per quanto riguarda il primo e il secondo girone. Scatta la terza giornata, quella che si gioca in contemporanea per evitare combine, che sono comunque sempre possibili anche con la contemporaneità. Ma certo, sarebbero più facili, sarebbero più agevoli se ci fosse lo sfasamento dei due impegni. Le due giornate si sono concluse, le prime due, con un netto incremento di gol. Nella prima, nel primo turno, i gol erano stati soltanto 25, davvero molto pochi, il minimo di una edizione mondiale a 32 squadre. Sono saliti adesso, nella seconda, sono stati segnati 42, quindi con un netto incremento siamo a un totale di 67, per quel che può valere. Alcuni gol molto belli, in media di un certo livello, di un certo spessore, come sempre poi alla fine è un gol, alcuni e non pochi per la verità frutto di errori marchiani o di traiettorie non facilmente controllabili di questo pallone che viene usato in Sudafrica. Un dato incontrovertibile è fino ad ora tutto rimediabile, ma insomma è una linea di tendenza che si era vista nella prima giornata e si è confermata nella seconda: il flop della vecchia Europa tradizionale, quella rappresentata dalle potenze storiche europee, e cioè in ordine sparso Italia, Germania, Inghilterra e Francia. Mi pare che per varie ragioni siano conciate una peggio dell'altra, forse con l'eccezione della Germania, che il male se l'è fatto da sola attraverso l'ingenuità di Klose, sì, che come ricorderete si fece espellere con la Serbia, e da lì una Germania peraltro più che decorosa e combattiva, comunque poi per ragioni di inferiorità numerica dovette soccombere alla Serbia. Ma certamente la partita giocata dagli inglesi contro l'Algeria è stata semplicemente avvilente. Le due giocate dall'Italia, in particolare la seconda con la Nuova Zelanda, se non sono state avvilenti, ci sono arrivate molto vicino. Quello che ha combinato la Francia in campo è stato dello stesso livello, anzi pure peggio, ma quello che è successo fuori campo da parte dei francesi non ha precedenti nella storia dei mondiali, perlomeno non a livello che si deve pretendere da una nazionale come quella francese. Ne parleremo, fermo restando che quella che si gioca tra meno di due ore a Johannesburg tra Sudafrica e Francia è una partita altamente drammatica, perché riguarda due squadre che con ogni probabilità sono già condannate dal probabile, possibile ma forse probabile pareggio nell'altra partita contemporanea tra Uruguay e Messico. Ma indipendentemente dal risultato altrui, insomma, è ovvio che una squadra padrone di casa eliminata al primo turno, e non era mai accaduto nella storia dei mondiali, da una parte, e dall'altra una Francia che se ne torna a casa non tanto con un risultato sportivo negativo, ma coperta di honte, come dicono loro, cioè di vergogna nel pieno senso della parola, e stavolta senza enfatizzazioni giornalistiche, insomma, non è facilissimo da trovare. Poi c'è il versante italiano. Le ultime che arrivano dal ritiro azzurro, condensate in un intervento di Zambrotta, che è stato il primo oggi a parlare davanti ai microfoni. Sentiamo. Sappiamo che è una partita comunque fondamentale, che ci sono comunque in ballo tre punti fondamentali. L'unico risultato per noi utile, per stare sicuri, è la vittoria. Oggi comunque abbiamo provato dei movimenti, lo proveremo ancora credo domani. Poi tra oggi e domani poi studieremo meglio la Slovacchia in video, quindi sicuramente troveremo il modo migliore per cercare di far gol. Sicuramente bisogna fare qualcosa di più, questo sì, però credo che comunque non sia tutto da buttare, insomma, la partita che abbiamo fatto contro la Nuova Zelanda. Tra i movimenti studiati in campo stamane c'erano anche quelli legati alla presenza di Pirlo, che ha giocato la partitella, ma sul cui recupero dal primo minuto c'è tuttora qualche dubbio, così come ci sono altri dubbi di formazione, perché sono salite le quotazioni di Pazzini, stanno salendo addirittura quelle di Gattuso, visto che si tratta di creare gioco. Di Natale potrebbe avere una chance stavolta dall'inizio, ma sono tutte ipotesi, perché al momento è come giusto che sia, in fondo a più di 48 ore dalla partita è ancora un laboratorio. Dicevo, il flop della vecchia Europa tradizionale, che tra l'altro risalta ancor più per via della ripresa che Portogallo e Spagna hanno avuto ieri, soprattutto i portoghesi con i loro 7 gol, ma anche la Spagna in serata ha dimostrato di saper vincere le partite che bisogna vincere ad ogni costo, anche se non mi sembra la Spagna brillante dei suoi momenti migliori. E poi c'è da non dimenticare, a proposito di europee, un'Olanda che sta viaggiando a fari spenti, che sta divertendo poco, ma sta comunque facendo i risultati e deve ancora recuperare il suo miglior uomo ex aequo con Snyder, e cioè Robben. Sembra un mondiale latinoamericano comunque, per come si è prospettato in queste due prime giornate, e questo potrebbe essere uno degli argomenti di cui poi converseremo insieme all'800240024, esaurite le notizie che arrivano da Sudafrica adesso attraverso questi contributi vocali dal ritiro azzurro, e poi con il consueto collegamento con il Sudafrica e con Fabio Tavelli. A proposito di critiche, non sono mancate all'Italia, sentiamo che le dice Zambrotta. Le critiche ci sono sempre state, non siamo mai pareti favoriti in nessun tipo di competizione. È vero che comunque abbiamo fatto due partite nelle quali comunque potevamo fare qualcosa sicuramente di più, che comunque due pareggi contro comunque due buone squadre, ma sicuramente non superiori a noi. Però abbiamo ancora una possibilità, siamo tutti uniti, insomma il gruppo ci crede a questa qualificazione, quindi credo che alla fine siamo comunque tutti abituati a questo tipo di clima e di sensazioni che si respirano, insomma, al di fuori della nazionale. Comunque per noi, per me non è comunque una novità questa, quella di vivere comunque questo tipo di situazioni. Ah no, Zambrotta c'era passato di sicuro nel 2006, e per quello che si è visto in queste due prime giornate mi sembra dei reduci quello che più è tornato a calarsi decorosamente, diciamo, decorosamente, più che decorosamente nella prima partita, nel primo tempo della seconda, poi soltanto decorosamente nella parte. Questo è comunque il giorno di Francia-Sudafrica, o Sudafrica-Francia, che è la partita più drammatica sino ad ora di questo mondiale, e rischia di esserlo in assoluto, perché, ve lo dicevo prima, una squadra è padrone di casa, e non era mai uscita la squadra padrone di casa fin dal turno eliminatorio, ed essendo il primo mondiale in Sudafrica, il primo mondiale africano, questo avrebbe un significato particolare per tutto il movimento. Dall'altra parte, una squadra di alto livello come la Francia comunque è, non si era mai macchiata di comportamenti così incredibili e tutto sommato così sportivamente vergognosi. Dunque è la giornata di Francia-Sudafrica, che di cui ci anticipa i contenuti, le attese e anche il tasso di emozioni e drammaticità, Fabio Tavelli, direttamente da Johannesburg. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. È una giornata, sì, calcisticamente con una connotazione molto forte, intanto perché oggi l'Africa rischia di perdere due nazionali sulle quali puntava molto, la Nigeria questa sera e il Sudafrica oggi pomeriggio. Le combinazioni perché il Sudafrica o la Francia passino sono poche, sono difficili, perché non c'è soltanto la necessità di vincere una partita, e tutte e due devono vincerla, ma la devono vincere anche largamente, devono tifare perché l'Uruguay batta largamente il Messico, perché l'Uruguay ha una differenza reti migliore e quindi l'avversario più vicino, anche se è molto lontano, è il Messico. Qui in Sudafrica i giornali stamattina li ho letti praticamente tutti, fanno appello all'orgoglio, al cuore, al sentimento della nazione, tutta la nazione, tutta l'Africa è stretta intorno al Sudafrica. Il Sudafrica è un luogo atipico per l'Africa come siamo abituati a pensarla, ma in questo momento è tutto un continente che tifa per il Sudafrica. Le critiche a Carlos Alberto Parreira non sono state fatte mancare anche in queste giornate. Prevedono i sudafricani una formazione con alcuni innesti, forse Mpela non ci sarà, Per quanto riguarda invece la Francia, è un totale rebus pensare anche solo lontanamente di azzeccare la formazione. Certo. Questa mattina ho avuto anche ospite in studio un importante giornalista francese. L'ho vista. Il quale così poi fuori onda mi ha anche detto di non escludere che qualche giocatore possa anche ridarla indietro la maglietta a Domenech, perché Domenech io credo abbia commesso ieri un qualcosa di clamoroso, di veramente inqualificabile. Lui si è pubblicamente dissociato con un comunicato che lui stesso ha letto il giorno prima. Ah, certo. Ora, se era contrario a questo comunicato, perché l'ha letto? E perché non ha detto il giorno prima che lui era totalmente contrario? Perché ha aspettato il giorno dopo? Cosa crede, che oggi Domenech possa essere rispettato in uno spogliatoio dopo che lui è andato in conferenza stampa a dire che non condivideva una parola di quello che hanno scritto i giocatori? Ora, io credo che le colpe vadano distribuite, e il collega francese stamattina ha messo la federazione in testa. Io sono d'accordo con lui, perché ha lasciato che questo cancro mangiasse completamente tutto il giocattolo, però onestamente una leggerezza del genere non me l'aspettavo. Poi magari nessuno gliela darà indietro, perché siccome c'è una talpa che parla con l'equipe, magari nessuno avrà piacere a leggere domani sull'equipe che chi si è rifiutato di giocare. Certo. Però è una situazione veramente clamorosa. Io credo che mai si era arrivati a tanto con un nazionale così importante. Ma difatti, c'è qualche ascoltatore scrive, ma anche nel 2002 la Francia uscì al primo turno senza fare gol. Ora, è vero che la Francia non ha ancora fatto gol, esattamente come Algeria e Honduras. Sono 3 squadre su 32 che non hanno ancora trovato la porta avversaria. Però quella era una nazionale campione del mondo a fine ciclo, semplicemente, sportivamente a fine ciclo. Questa è davvero un'altra cosa che si è coperta di ridicolo, ma insomma il ridicolo è subentrato dopo, prima si è coperta di fango nel vero senso della parola. Dato che rimbalzano le cose, perché siamo nel villaggio globale, qua si è scoperto che tu hai una rubrica sul giornale di Brescia quotidiana, e allora anche tu oggi, come altri, e tra questi me sul Sole, insomma, abbiamo fatto notare che quando si passa il confine, quando si varca un confine, una reazione c'è sempre, e in genere la prima reazione è sempre di carattere economico. Ieri Crédit Agricole, che è una delle banche più importanti d'Europa e che è uno sponsor ufficiale della Federazione Francese, ha cominciato a tirare il freno a mano e ha detto: gli spot televisivi con i giocatori francesi, con la nazionale francese, su TF1 non passano più, perché noi dobbiamo tutelare un marchio che questi signori hanno, per dirla in maniera molto lieve, hanno sputtanato in una maniera irrimediabile. Ma tu hai fatto un parallelo molto divertente, sto leggendo che quando continuiamo a vedere la moglie di Girardino che ricorda al marito il bonifico per l'asilo, no? Tutti i giorni, e soprattutto dopo che magari è appena finita la partita all'Italia, comincia a essere un po' imbarazzantino, no? Sì, comincia, poi è chiaro che nessun dettaglio, l'intento di chi ha pensato questo spot era evidentemente di far sorridere. È chiaro che, vista dopo una partita nella quale Girardino non l'ha vista mai, può essere un po' così irriverente, certamente fastidioso. D'altronde la pubblicità rischia, cioè può azzeccarci o può anche toppare. Io poi ho una mia opinione, cioè io poi ho anche citato il fatto che ci sia una catena di fast food che abbia interrotto il contratto con Anelka. Cioè, secondo me un panino è buono o è cattivo, non è che lo vado a mangiare se lo pubblicizza Anelka oppure lo pubblicizza Girardino. E quindi adesso io non ricordo neanche che cosa pubblicizzi la moglie di Girardino. Mi può far sorridere o mi fa arrabbiare. Io ad esempio sono correntista di una banca che fa parte del gruppo Crédit Agricole, ma non mi sognerei mai di andare a spostare quei due euro che ho lì semplicemente perché i francesi si... Però capisco che all'interno di una politica di marchio, bravi la chiamano di brand, certo, legarsi a un marchio in questo momento negativo possa essere disdicevole. Capisco anche Crédit Agricole. Ci sono stati fior di mondiali di europei in cui il famoso uccellino era un discreto autogol, se vogliamo, adesso senza poi tornare né a nomi né a marchi, ma insomma chi vuol capire capisce. È un mondiale anche di anarchia e di ribellioni plateali, se ne è letta di un'altra, di Muntari per esempio con il Ghana, quindi non solo i francesi e non solo malesseri assortiti tra Inghilterra, qualcosina Italia e Sudafrica. Guarda, ieri quando è arrivata l'intervista a Capello, gli amici inglesi di ITV che ce l'hanno portata ci avevano anticipato fosse un'intervista forte, noi l'abbiamo mandata subito in onda. Ieri ci sono state due cose molto forti, secondo me. le parole del ministro francese alla sanità e allo sport, che ho trovato, tra l'altro, poi riascoltandole, in certi passaggi di una caratura sconosciuta ad altre latitudini, perché poi i politici spesso parlano di sport, ma questa signora, che è un medico, ha citato la nazionale di rugby e ha citato l'impresa di Cardiff contro la Nuova Zelanda per ricordare ai signori vestiti di blu che cosa significhi indossare la maglia della nazionale francese. E poi intervista Capello ha pubblicamente stigmatizzato le parole di John Terry, che non erano parole, per carità, durissime, anzi John Terry poi nel resto dell'intervista ha continuato a sottolineare che lui è con Capello, la squadra è con Capello, ma Capello ha fatto, insomma, ha estratto la mascella, insomma, ha fatto quello volitivo, e ha fatto bene, perché stamattina John Terry si è immediatamente scusato. E tra l'altro ieri sera a me curiosamente veniva in mente come se Capello avesse fatto fuori John Terry, sportivamente naturalmente, cioè Capello aveva perso Rio Ferdinand per infortunio, infortunato anche Ledley King, squalificato Jamie Carragher, insomma, se avesse messo fuori anche John Terry per insubordinazione gli restava solo Upson, e quindi la ragion di Stato voleva che i due facessero pace, e in effetti. Così, in effetti così è andata. Senti, oggi non è soltanto un problema di così, cioè, questa vigilia di dramma sportivo, c'è anche un risvolto che è serissimo, ma che potrebbe diventare comico, e che leggevo per l'appunto stamane, che tu hai anticipato, e cioè che ci sono due salette a Johannesburg, una è Ellis Park e l'altra, adesso mi racconti bene, in cui stanno preparando le estrazioni del lotto. Perché sì, sì, la formula è tutto pronto nella sala conferenze qui del Soccer City Stadium. C'è una, appunto, c'è un'urna con i bussolotti già pronti, e bisognerà semplicemente inserire i foglietti con i nomi delle due squadre nel caso in cui ci fosse la necessità di arrivare a un sorteggio. Ora, la FIFA le prepara di default sempre, e quindi non si era mai neanche nessuno posto il dubbio che la FIFA le avesse preparate, perché le classifiche negli anni passati erano tali che nessuno pensava che si potesse arrivare alla monetina. Ma siccome la possibilità che si arrivi alla monetina tra Italia e Nuova Zelanda è abbastanza concreta, e allora questa è diventata una notizia. Quindi già da oggi pomeriggio, per la partita delle 16, il sorteggio verrebbe fatto alle 19. Per la partita delle 20:30 il sorteggio verrebbe fatto alle 23. Ripeto, non succede, però insomma, se succede la FIFA non può farsi cogliere impreparata, e dunque avremo questa sorta di tri-box, come lo chiamiamo noi, con le immagini sul campo di una squadra, le immagini sul campo dell'altra, e poi la telecamera su, non credo andrà Blatter, ma insomma andrà qualcuno di importante comunque della FIFA, con i rappresentanti delle federazioni, in quel caso che sono nell'urna come nome, ad essere lì presenti al sorteggio, e insomma si farà il sorteggio. È molto diverso dal 68, quando ci fu il lancio della monetina tra Italia e URSS, la monetina che poi si incastrò e che avrebbe detto URSS se non fosse stata rilanciata e avesse detto Italia per quell'europeo che poi l'Italia vinse. Questa è storia, ma certamente pensavamo fosse una storia come dire sepolta, e invece sta tornando all'attualità, perché l'ultimo dei parametri, lo ricordo agli ascoltatori che ci seguono, dopo i confronti diretti, le differenze reti, la differenza reti nei confronti diretti e il numero di gol segnati superiore o inferiore, alla fine l'ultimo parametro che si è stabilito di adottare è non il ranking FIFA ma il sorteggio, e io tutto sommato penso che l'alea sia poi meglio di un rango, no? Visto anche perché poi a quel punto forse tanto varrebbe, Fabio, qui chiudiamo, premiare il rango inferiore, per no? Se una squadra più forte non è riuscita a battere, se l'Italia, che è quarta più o meno nel mondo, adesso non ricordo esattamente quanto sia, non batte la 78esima, beh, tutto sommato è giusto che passi la 78esima, a parer mio. Sì, però questo è un criterio che a Blatter non piace, credo che non piaccia a nessuno di quelli poi vendono gli spot pubblicitari e dal mondiale ricavano del denaro, quindi scordiamocelo. Italia e Nuova Zelanda, se finiscono pari, sono pari in tutto, e quindi non esiste la possibilità di giocare un match di spareggio, non esiste la possibilità diversa che non quella di un sorteggio. Il ranking mondiale potrebbe essere un parametro, però in questo caso bisognava deciderlo prima, non è stato deciso prima, e quindi c'è un'ipotesi remota, remotissima, che anche secondo me stavolta comunque non si verificherà, ma insomma, se si dovesse verificare, le urne sono pronte. Il bussolotto. Avremo visto anche questa. Avremo visto anche i bussolotti. Grazie, Fabio. A voi, a domani. Sì, poi anche su certa stampa francese, come già ieri anticipava Tarelli, si potrebbe si potrebbe fare qualche riflessione, perché oggi a tutta pagina l'Equipe titola "Per l'onore", no? E c'è una questa scritta sormonta una foto a tutta pagina dei giocatori durante l'ultimo allenamento. Beh, insomma, se penso al fumetto che sormontava la copertina dell'Equipe 4 giorni fa con la frase testuale che Anelka avrebbe detto, anzi ha detto, a Domenech, e a quel tasso di volgarità sparata, estrema, sparata in prima pagina, boh, insomma, io penso che allora è molto, ma molto più coerente, come è normale che sia, Le Figaro che scrive, che titola "I Bleu tentano una riabilitazione impossibile". E poi spiega, al di là delle prestazioni sportive pietose in cui la noia ha fatto a gara con la manifesta mancanza di coesione, l'assurda ribellione dei giocatori alla federazione ha definitivamente discreditato una nazionale agli occhi del pubblico. Il risultato della partita di oggi pomeriggio non cambierà più nulla. Ecco, questa mi sembra una presa di posizione seria. Poi ci sono delle mail interessanti. Elisa da Milano, Fabio Alias da Olbia, che a proposito di sorteggi o di ranking FIFA. Però prima sentirei 2 o 3 ascoltatori. Marco, per esempio, provincia di Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Visto dell'Italia hanno parlato tantissimo, ma volevo fare 3 domande sulle altre nazionali. Secondo lei l'Argentina, nonostante Maradona, potrà avere le chance di vincere? Perché ho visto quel Gutierrez giocare sulla destra, che è imbarazzante pensare che ha lasciato Zanetti a casa. E poi invece, in caso mai si andasse avanti, che è difficile, non si rischia una figura ulteriore, un'ulteriore figuraccia con l'Olanda, perché penso, da come si sta giocando, si rischia di prendere diversi gol a queste squadre un pochino veloci, e insomma, che sai che l'uno contro uno si saltano, Cannavaro. E l'ultima, poi velocemente, gli volevo dire che una volta tanto, forse è di consolazione, ma la Francia ha fatto una figuraccia, e ci insegnano sempre a vivere, ma questa volta penso che non faccia una figuraccia peggio della nostra. Nel calcio attuale non possono certamente insegnare più nulla a nessuno dopo quello che hanno combinato. Poi, se parliamo di altre materie, abbiamo sentito raccontava prima Tavelli, abbiamo sentito come un ministro, come un uomo politico, quando parla di calcio interviene, cioè a che livello e a che spessore interviene. Si legga anche oggi qualche intervento di uomini politici nostrani e arrossisca, come dovremmo sempre arrossire, a parer mio, nei confronti degli stati e delle nazioni più autorevoli. Se parliamo di Argentina e di Maradona, io credo che sì, invece sia più che candidata alla vittoria finale, e mi sa tanto che il lavoro che Maradona sta facendo adesso da commissario tecnico sia eccellente. Poi, da selezionatore, sono d'accordo con lei, uno che lascia a casa Zanetti e Cambiasso è ampiamente discutibile. Qualche lacuna in campo ci potrà essere, però lo spirito è quello giusto, e mentre altrove stanno succedendo brutte cose tra giocatori e allenatori di professione, mi sembra invece che tra giocatori e un ex calciatore, anzi un ex fenomeno come Maradona è stato, mi sembra invece che i rapporti siano al momento idilliaci. E l'ultimo punto, no, non sono d'accordo, nel senso, io la penso come Costa Curta, anche stamane su Sole 24 Ore, andando avanti l'Italia non avrebbe che da guadagnarne. Primo, perché non vai fuori come una ramazza e vai fuori contro avversari più di maggior caratura, e quindi comunque è una brutta figura minore, o comunque una delusione minore. Secondo, è più difficile per le caratteristiche dei nostri giocatori e per la mediocrità assoluta del nostro attacco, è molto più difficile giocare contro avversari chiusi che non contro avversari che invece il pallino del gioco lo prendono in mano loro, almeno in teoria. Angelo, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Mi ha tolto le parole dalla bocca quello che volevo dire, in parte l'ha già detto lei. Beh, diciamo che mi ricollego a quello che diceva lei prima, che sono sempre più convinto che il cuore pulsante dell'Italia non siano le istituzioni, il Parlamento, il Senato, ma i prati verdi degli stadi, appunto, senza fare nomi di politici eccetera, di quello che si sente e si vede in giro. Sull'Italia volevo solo dire questo, sembra un po' la coperta che uso io in questi periodi che non fa molto caldo qui in Piemonte, dalle mie parti, Livrea, e che girala come vuoi, la coperta è sempre uguale. Noi abbiamo una nazionale che senza offesa per nessuno, non è una grande una grande nazionale a livello di uomini, giocatori intendo, fenomeni come appunto ha detto il nostro CT Lippi, e quindi dobbiamo un po' adeguarci a quello che ci passa al convento. E riguardo a Lippi, mi permetto, io sono un povero disoccupato e anche un po' così abbattuto visto i tempi e del lavoro, non riesco a trovarlo. Sorrida qualche volta Lippi, accetti qualche volta una critica senza sempre dover ribattere, fare la lezioncina ai giornalisti e sempre fare il sermone, sempre abbia un po' di non lo so, forse ce l'ha l'umiltà, ma una volta tanto sorrida e dica vi chiedo scusa, ho sbagliato, e sempre dall'altra parte. La saluto e l'ascolto per radio. Grazie Angelo, guardi, non, io penso che lei abbia ragione, penso anche però che non sia così facile poi dovere avere tutti i giorni a che fare con le stesse cose, le stesse domande, gli stessi, insomma la stessa routine, oltretutto in un momento in cui le cose non vanno benissimo. Poi che Lippi sia spesso sgradevole anche quando le cose vanno bene è altrettanto vero, quindi alla fine mi tocca praticamente dar ragione a lei. Scrive Fabio Alias, se no sarebbe sardo, perché scrive da Olbia. Dice, scrive in merito alla possibilità che l'Italia si trovi nella situazione di essere sorteggiata. Non le sembra un po' antiquato come sistema? È possibile che la FIFA non abbia pensato a una soluzione differente? Un esempio potrebbe essere quello di qualificare la squadra con meno sanzioni disciplinari. Sarebbe sicuramente più meritocratico e premierebbe il vero fair play. Caro Fabio, no, io non sono d'accordo, perché ti capita un arbitro ridicolo come quello di ieri, l'arabo che ha arbitrato ieri, l'arabo, spero di non far la fine di Carosio nel 70 quando disse l'Etiope a proposito del guardalinea che aveva annullato il gol, l'arabo di ieri che caccia fuori lo svizzero Berami, che non ha fatto assolutamente nulla, e poi ammonisce, non li ho contati, ma ammonisce almeno 8 giocatori o 9 tra svizzeri e cileni, in una partita correttissima e neanche particolarmente dura. Cioè, ti capita un arbitro del genere e tu ti giochi la qualificazione dentro o fuori sul numero di cartellini che hai preso da un arbitro incapace o non all'altezza o comunque abituato ad arbitrare campionati da scapoli ammogliati, ma nemmeno per idea. Allora a quel punto meglio la monetina, penso io. Elisa da Milano scrive, mi perdoni, ma il ranking FIFA non è fatto per caso o per sorteggio, deriva dai risultati precedenti, è come quando uno studente si tiene conto delle capacità espresse durante l'anno piuttosto che sulla singola interrogazione. Il lavoro ben fatto non deve essere penalizzato, altrimenti la meritocrazia dove la mettiamo? Io continuo a pensare che se si dovesse applicare il ranking, è come il discorso del sorteggio di Coppa Italia di quest'anno, cioè se Milan-Novara l'hanno giocata a San Siro, secondo me Milan-Novara di Coppa Italia si gioca a Novara, cioè si gioca sempre sul campo della più debole, secondo me, della più debole di categoria, non sto parlando di meritocrazia in questo caso, proprio di categoria, cioè si gioca sul campo di chi fa la terza elementare anziché la quinta, per capirci, o la prima media anziché la terza. E tutto questo però, cioè questo che scrive Elisa e quello che scrive Fabio, sarebbero superati dagli eventi se un giorno ci fosse la grande vera svolta, che sarebbe per me almeno la panacea di tutto, cioè l'abolizione dei gironi, un tabellone unico in cui si comincia fin dal primo turno con l'eliminazione diretta e basta con queste manfrine, con questi calcoli e con queste ridicole differenze reti piuttosto che sorteggi, piuttosto che gol segnati, piuttosto che fuori casa, dentro casa, eccetera. Eliminazione diretta e basta. Quello è puro spettacolo. Fa ridere la Champions League fino a febbraio. Diventa un grande torneo da febbraio in avanti. Domenico da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiederle a proposito delle squadre sudamericane che stanno giocando così bene. Come mai le squadre europee non hanno mai vinto fuori dall'Europa? È un caso secondo lei oppure c'è qualche motivo veramente particolare a questo punto? Ma è più o meno, potrebbe essere la ragione per cui raramente le sudamericane vengono qua. Questo è un caso abbastanza anomalo, quello di quest'anno, perché un conto è se giochi su un continente e vincere una squadra di quel continente. Qui non sarà certamente un'africana a vincere, anzi è già molto se ne resterà una negli ottavi, cosa di cui dubito fortemente. e quindi nel caso di quest'anno no, io non credo che sia un caso molto particolare, perché si giocasse in condizioni climatiche particolarmente congeniali, non so, agli europei piuttosto che ai sudamericani, si potrebbe, ma si sta giocando al freddo, quindi le condizioni climatiche sono favorevoli cioè non stanno penalizzando certamente le europee, eppure le europee vanno molto male, e invece le latinoamericane, non solo le sudamericane, perché ci metterei anche il Messico o le latine, come possono essere il Portogallo e la Spagna, stanno andando bene. Il ripasso è curato da Nicola Filippone, della storia dei mondiali, che cosa è accaduto in un 22 giugno. Sembra ieri. 22 giugno 1974. Ad Amburgo la Germania Ovest esce sconfitta a sorpresa nella sfida contro la DDR nell'ultima gara della prima fase. I tedeschi dell'Est chiudono così il girone al primo posto, scavalcando proprio i cugini della Repubblica Federale. Il gol che decide la storica gara lo sigla il centrocampista del Magdeburgo, squadra che aveva vinto la Coppa delle Coppe battendo in finale il Milan, Jürgen Sparwasser, bravo a inserirsi nell'area avversaria sorprendendo Beckenbauer e il portiere Maier. Wiederholung. Und gut. Sparwasser. Und Tor! Zu spielen noch etwa 12 Minuten. L'avventura della Germania Est, al suo primo e unico mondiale, si concluderà nella seconda fase. Gerd Müller e compagni, invece, smaltito immediatamente lo shock per un KO inatteso, arriveranno fino alla conquista della Coppa. Nella storia delle fasi finali è accaduto solo altre due volte che una squadra sia stata sconfitta prima di laurearsi campione del mondo. Alla stessa Germania Ovest nel 54 contro l'Ungheria e all'Argentina nel 78 contro l'Italia. Il gol di Sparwasser, che fu storico, mica poco, perché insomma la Germania Est che batte la favorita, favoritissima, che poi in effetti vinse il mondiale, Germania Ovest, non fu una sorpresa da poco. Il 22 giugno è anche il giorno della mano de Dios di Maradona, è il giorno di quell'Inghilterra-Argentina 1-2 allo stadio Azteca di Città del Messico, in cui Maradona segnò un gol con la mano e un altro con il più leggendario slalom di tutti i tempi. E, sempre il 22 giugno è una data poco favorevole agli spagnoli, che per loro fortuna oggi non giocano, perché sono stati eliminati ai rigori dal Belgio nell'86 e dalla Corea nel 2002, in capo a una partita in cui l'egiziano Gandur veramente fece tre volte tanto quello che aveva fatto Byron Moreno per favorire la Corea, e quindi per fortuna degli spagnoli oggi non ci sono calci di rigore a tirare. Alberto ha chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo chiederle un parere su due cose veloci. Visto che in Italia siamo tutti CT, lei secondo me lo è un po' più di noi. È d'accordo che Pazzini sia decisamente più forte, più in forma di Girardino? La prima cosa. E secondo, non le sembra dopo due partite che proprio il blocco juventino sia quello più in difficoltà, forse a livello psicologico, visto che è passato un anno difficile di stress e di brutti risultati? Grazie mille. Grazie a lei. Sì, Pazzini, cioè nel finale di stagione era certamente in condizioni migliori di Girardino. Adesso è difficile dirlo, perché dal finale di stagione è passato un mese. Noi abbiamo visto che certamente Girardino non è in forma, e su questo mi pare ci sia poco da discutere. Che lo sia Pazzini, insomma, dall'ultima mezz'ora che ha giocato l'altro giorno con la Nuova Zelanda mi sentirei di escluderlo. Che partendo dall'inizio possa essere più in forma di Girardino, secondo me questo l'unico che può valutare, o comunque quello che lo può valutare meglio, è proprio Lippi, perché gli ha sotto il naso dalla mattina alla sera, e soprattutto li vede allenare e vede le partitelle. Noi non abbiamo parametri. Il blocco Juve io sinceramente non lo vedo in questo momento, non vedo un blocco Juve, nel senso che la coppia centrale difensiva sì, per il resto c'è qualche comparsata secondo me risparmiabilissima, Erika Moranesi ogni tanto, Marchisio mi sembra che la sua chance l'abbia avuta e abbia avuto anche la controprova e non se la sia giocata al meglio, ma non mi sembra si possa parlare di blocco Juve, se non, ripeto, per la coppia centrale difensiva che sì, si è fatta sorprendere sui calci piazzati, ma non mi pare che abbia commesso poi errori particolarmente gravi, e comunque non è certamente andata peggio del resto della squadra fino a questo punto. Donato Varese, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io mi faccio, beh, intanto confermo anch'io quello che ha detto Lady Gilardino, lo trovo in pessima forma, ma poi ha sempre dimostrato, pur sicuramente essendo una brava persona, probabilmente di mancare della determinazione nei momenti in cui le partite diventano importanti. Ha sempre fallito le occasioni che contano in tutte le società in cui è stato e in nazionale. Poi, per amor di Dio, non è una colpa se ha questo limite, però bisogna farsene anche una ragione. Lippi, è vero, dice che non ha lasciato a casa nessun fenomeno e tutti siamo d'accordo. Noi non abbiamo Messi, non abbiamo Cristiano Ronaldo, non abbiamo Fernando Torres, però non abbiamo completamente una categoria che è quella o dei fantasisti o, se vogliamo, dei cavalli pazzi, perché nelle partite come quella della Nuova Zelanda, quando devi segnare e di gioco non ne hai, o hai un giocatore che inventa la giocata o francamente non so come la risolvi, e noi non abbiamo nessun giocatore di quel livello. Non abbiamo un Totti, non abbiamo un Del Piero per scarsi che siano a fine carriera, non abbiamo un Cassano, non abbiamo un Balotelli, non abbiamo un Miccoli. Magari nessuno di questi avrebbe cambiato qualcosa, ma portarsi un attaccante che non vedrà mai il campo, allora forse era meglio avere una scelta così fuori dagli schemi. Non so cosa ne pensa lei. Ma sì, in teoria certamente sì. Io di tutti quelli che lei ha detto, ovviamente ho stima, o in qualche caso anche di più, però sinceramente Totti non è più un giocatore di fantasia oggi. Totti è un giocatore di potenza che gioca da centravanti puro e che è meglio, ma meglio senza discutere di quelli che ci sono là, Pazzini, Gilardino, Iaquint. Il problema è se sta in piedi, cioè se è sano, fin dove può reggere. Non, Totti già, vabbè, era reduce di un incidente gravissimo, ma non fu certamente un elemento determinante già in Germania quattro anni fa, quando per l'appunto era assai più giovane. Del Piero mi sembra che siamo nei paraggi del capolinea, no? Anche nel club, non sto parlando soltanto di nazionale. Cassano ha giocato mi pare un mondiale o un europeo, comunque era nelle rose, è stato convocato, non è un giocatore di classe internazionale per quello che ha dimostrato in carriera, perché da Madrid sappiamo che è finita l'avventura, e nelle due volte in cui ha avuto la chance non ha fatto il fenomeno, per usare le parole di Lippi. Ne restava uno che secondo me, anche per ragioni di colore di pelle, sarebbe stato un messaggio, sarebbe stato una novità, sarebbe stato un modo di anticipare una linea di tendenza che tutte le altre nazioni hanno già adottato e che noi invece continuiamo a ignorare. Ora non so se lo ignoriamo per ragioni preconcette o casuali, però fatto sta che quell'uno secondo me ci stava, perché è completamente pazzo, insomma, detto tra noi, no? Negli atteggiamenti, nei comportamenti e in molte altre cose che più o meno sappiamo e abbiamo imparato, però è anche quello che a un quarto d'ora alla fine, a mezz'ora alla fine, quando non sai come venire a capo di qualcosa, questo ti spacca la partita. Certe volte ti spacca altro, anzi la maggior parte delle volte, però ti può spaccare la partita. Questo secondo me era l'unico rischio da correre da un punto di vista ambientale. Lippi ha scelto di non correrlo e credo che sia, vedremo da giovedì in avanti se sarà stato un errore, una colpa o semplicemente una scelta. Leonardo da Roma, buongiorno. Buonasera. Dica. Buongiorno. Senta, io chiaramente, quando uno guarda il mondiale, ha la possibilità di vedere cose di tutti i colori, in tutti i sensi, quindi cose che capitano, dove partecipano squadre forti, squadre meno forti, ma anche arbitri più bravi e meno bravi. Io faccio riferimento all'arbitro arabo che ha fatto tutte quelle ammonizioni, ma lì rientra secondo me nell'incapacità dell'arbitro, che forse non era all'altezza di un mondiale. Ma la cosa che in più mi ha sconvolto invece è stato l'arbitro che ha arbitrato il Brasile, dopo che Luis Fabiano ha segnato toccando chiaramente due volte con la mano, dopo che il gol è stato convalidato, senza un minimo di esitazione, si è visto chiaramente l'arbitro dal labiale che chiede a Luis Fabiano, lui l'arbitro, se Luis Fabiano ha toccato o meno la palla con la mano. Non solo, Leonardo, non glielo chiede in maniera formale, perché almeno sarebbe stato un atto, glielo chiede in maniera informale, direi cazzeggiando, per usare un termine da notti mondiali, no? Glielo domanda così, tornando a metà campo, è stata una sequenza ridicola, ma non è stato il peggio di quest'arbitro francese, se ne parlava ieri, è che poi per due entrate di rara gravità sulle tibie dei brasiliani, questo nemmeno ha fatto una piega, in un caso nemmeno ha fischiato fallo. Questo è il livello di quell'arbitro francese dell'arabo. Per fortuna il livello medio degli arbitri del mondiale è molto più alto, ma con qualche purtroppo eccezione. Grazie a Filippo Auregi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani. A tempo di sport.